posizione così conclamata, perché hai raggiunto i tuoi grandi contributi e potresti lavorare in questo senso. Però chiaramente tu avete avuto problemi fisici eccetera, perché da lì già tu hai costruito 5 anni, per cui non è che credo, però e questo è ciò che mi ha detto un amico che lo sta facendo, mi ha detto che praticamente bisogna fare la domanda a 70 anni per la rivalutazione, e se non fa la domanda non tieni dati, sono pulpi, loro cercano sempre la scocciatoia per non darti quello che ti spetta, capito? Se tu non ti informi si è fregato, o se non ne sai. Io vabbè, ho amici, capito, che lavorano lì, capito, quindi so le cose come sono. Sì, ma bisogna sempre comunque la contenta di quello che fa lo Stato, passato, chiaramente se non ne sai probabilmente non lo sai, proprio perché ero incompatevole. Thank you. non hai percepito. Allora cosa fanno loro? Ti tolgono l'invalidità, quello ti danno per le vecchiaia e ti calcolano i contributi e te li lasciano. Ti calcolano sempre i contributi con quella di vecchiaia, la pensione di invalidità poi la tolgono, capito? Però i contributi le tengono conto. Se... anche tu con la modalità in Italia, no? E in base a questo carri correttrici, quelli fantucci, per fare fuori i vecchietti che organizzavano le gite, poi sotto la galleria dicevano, dai, scendete per fare la pipì tutti qua, ti scendevano, passavano gli autotreni, ma tutti spiccicati davanti. Allora facevano così, facevano le gite, avevano tutti quei cartelli, sì, tutti festeggiando, no? E l'autista del Pullman, questo dell'Inps, l'autista del Pullman era dell'Inps, no? E gli diceva, sotto la galleria, diceva, dai, andate a fare la pipì, se avete, chi ha bisogno di fare la pipì, scende a fare la pipì. Tutti quanti scendevano, che se passavate l'autotreno, ma tutti attaccati all'autotreno davanti. E allora, per farli fuori non lo facevo. Tutti i contenti, poveracci, con i cartelli alla stazione, ips, tutti quei cartelli scritti con la scritta ips. Fare queste cose qua, tutto lì. Vabbè, dai, mi ha fatto piacere fare questo visto che non è tratto nessuno, siamo tutti all'ascolto. Andavo, ci sentiamo, dai, ti saluto che devo uscire adesso, vai, col cane, all'aeroporto adesso, perché qui c'è troppo freddo. Buona serata, grazie per il QSO, buona serata anche agli ascoltori. Ciao a tutti. Sì.